guardate da quante mani abitate, che l'isola nostra di proletariato è presso schiacciato da lunga vita. Non questo pugnando tra magiche squille, ma noi promettesti legione e mille, e contro i borboni e i nuovi ribaldi, il buon Garibaldi da quarto salvò innanzi all'eccidio dei nostri fratelli. Sorgiamo guardigi più forti e ribelli ad ogni giustizia.